viaggio con Easy Riders. Martedì 13 maggio e come promesso si riparte puntuali 21:02. Ringrazio Marco con il suo fatidico Hard and Heavy che vi tiene compagnia tutte le sere dalle 20 alle 21. Io oggi sono felice perché, come vi avevo annunciato, ho un prestigioso ospite, un ospite della serie I Maestri, perché come vi annunciavo ieri anche Easy Rider ha dei maestri e uno si è finalmente materializzato qui, proprio meglio tardi che mai devo dire, forse negli ultimi giorni di radiofonia sulle onde di Rock FM, ma insomma ho il piacere di ospitare Beppe Riva. Tra poco sentirete anche la sua voce, vi spiegheremo meglio di chi si tratta, anche facendo parlare molto la musica. I contatti, qualora non foste ai concerti dei Kiss, piuttosto che insomma interessati a parlare direttamente con me, piuttosto che con il maestro Beppe Riva, i contatti sono i soliti: 335-100-7777 e mox@radiorockfm.com per ora, ma usate anche mox@rockfamily.it. Io ripeto, prima di sentire la voce diretta di Beppe, voglio innanzitutto fare il ringraziamento personale al prezioso amico della redazione di Easy Rider, Filippo, che mi ha fatto in modo che questa cosa si realizzasse, quindi contattando lui direttamente questo prestigioso giornalista, e quindi partiamo pure con la musica. È il momento di voglio specificare questa cosa. Solitamente siete abituati che con gli ospiti di Easy Rider si gioca, cioè io faccio sentire dei pezzi improvvisando e giocando con gli ospiti, suscitando in loro le emozioni. Questa volta è avvenuta una cosa contraria, praticamente la scaletta è già stabilita, quindi non ci sono né sorprese né segreti, niente, solo una lezione di buon rock. E allora partiamo con dei maestri assoluti del genere rock di tutti i tempi. Io quasi quasi non vi dico neanche il nome, vi faccio solo sentire questo brano che si intitola Il filo, il filo della lama, del coltello, Knife Edge, e siamo nel 1970, momento in cui questo celebre trio esordisce pubblicando il loro album omonimo. Step, cried the sad man, take a look down at the madman. Theater king's on, silver wings fly beyond reason. From the flight of the seagull come the spread claws of the eagle. Only fear breaks the silence as we all kneel, pray for guidance. across the abyss. Take a look down at the madness on the streets of the city. Only specters still have pity. Patient queues for the gallows. Sing the praises of the hallowed. All machines feed the furnace. If they take us, they will burn us. Da storia della musica rock, Knife Edge, ovviamente avrete riscontrato la sonorità tipica di Emerson, Lake & Palmer, quella che loro hanno inventato proprio in quell'anno, nel 1970. Allora, cosa ho fatto partire qua intanto? Una cosa che non c'entra nulla. Allora Beppe, io sono pronto per farti intervenire la tua, ecco, infatti avevo sbagliato le basi, eccole qua. Eccomi, un attimo, sto correggendo una cosa. Beppe Riva è in mia compagnia, do il benvenuto ad Easy Rider per la prima volta dopo sei anni di trasmissioni. Allora, dovresti avere il microfono aperto. Bene, allora, innanzitutto ti ringrazio per questo invito, perché comunque, visto che tra l'altro io ormai non sono più attivo, è comunque un grosso riconoscimento per me intervenire in una radio che resta in ogni caso leader del settore come Rock FM, di cui ovviamente saluto gli ascoltatori. E vabbè, il motivo per cui siamo partiti con questo tipo di musica è molto semplice. Io non sono giovanissimo ovviamente, e il mio amore è vero. Te ne sei un po' vissuto? vissuto, te lo sei un po' vissuto. Il mio amore vero per il rock è proprio scoppiato dopo comunque, diciamo, dei preamboli di origine 60s, proprio nel 1970. Nel 1970 io sono rimasto folgorato fondamentalmente da due gruppi. Uno è un gruppo che tutti gli ascoltatori di Rock FM conosceranno senza nessun problema, perché è attualmente citato tra le massime influenze dei gruppi contemporanei, vale a dire Black Sabbath. E poi ci sono, io amavo contemporaneamente il rock progressivo, e per me in questo genere gli Emerson, Lake e Palmer restano leader assoluti, non per caso erano stati definiti il supergruppo per antonomasia degli anni 70. Keith Emerson è un genio assoluto della musica rock, e loro hanno fatto questo blend peraltro esplosivo di rock, musica classica e jazz, con una versatilità, un'abilità espressiva senza pari. E tra l'altro ricordiamo che Keith Emerson è stato l'uomo che in quel periodo così fertile della musica rock a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70 è quasi riuscito a portare l'organo Hammond all'altezza della chitarra elettrica. Non a caso era stato denominato il Jimi Hendrix dell'organo, ecco. Perciò ecco quello che è paradossale, per questo che ho voluto anche aprire il programma con questo brano, è che attualmente tra tutti i gruppi che andavano per la maggiore in quel periodo, un po' per colpa loro, perché hanno avuto sicuramente grosse vicissitudini interne, un po' per negligenza a mio avviso della critica e di un pubblico che spesso viene ammaestrato dalla critica in un modo anche molto fazioso, sono clamorosamente diventati quasi sconosciuti al pubblico contemporaneo, ecco, a differenza di grossi personaggi, grossi artisti di quel periodo che sono tuttora, anche magari con alterne vicende, dai Genesis ai Pink Floyd, sì, che hanno sulla cresta dell'onda. Certo, hanno saputo mantenere, insomma, anche con degli studi di marketing appropriati, sicuramente la loro immagine salda. Allora, come avrete capito, questa sera, trattandosi di un vero e proprio maestro, adesso vi spiegherò meglio chi è, perché non ve l'ho inquadrato così bene, e lo dico perché so che molti di voi all'ascolto sanno benissimo chi è questa persona in mia compagnia per le due ore di Easy Rider questa sera, ma alcune possono anche non saperlo. Allora, i meriti di quest'uomo, che detto banalmente è un giornalista musicale, sono quelli di aver sdoganato tra i primi in Italia dei gruppi che sono diventate poi, anche per merito suo, nel nostro paese, delle vere e proprie celebrità. A proposito proprio di corsi e ricorsi storici, lui ha menzionato Emerson, Lake & Palmer, ma diciamo che dalla fine degli anni 70 in poi Beppe Riva ha iniziato con un gruppo di amici a scrivere articoli relativi prevalentemente all'heavy metal, ma poi sì, c'è stato uno sviluppo. E quindi se in Italia si conosce un nome come quello degli Iron Maiden, per esempio, tanto per farne uno, ecco, diciamo che il primo a parlarne è stato lui. Ho detto Iron Maiden per semplicità, ma sono moltissimi i nomi, come anche Metallica, come Manowar, come Diamond Head, Blue Oyster Cult, Guns N' Roses per esempio, che ecco. Anche recentemente ho visto su internet che qualcuno si ricorda di questa cosa. Esatto, quindi il merito di Beppe Riva, tra l'altro scavando su internet, scavando in rete, digitando semplicemente il tuo nome e cognome, sicuramente esce molto di quello che è il tuo operato. Allora, per anni hai scritto su questa rivista capostipite del rock underground italiano, sia Rockerilla, poi sei passato in quelle ancora più specializzate di settore come Metal Shock, tanto per dirne una, e poi hai scritto anche un libro alla fine degli anni 80, mi sembra, di cui dopo parliamo, perché c'è stata anche l'esperienza con Marco Garavelli, ovviamente. Però oggi la cosa importante, in queste due ore voglio approfittare della tua presenza proprio per parlare di cultura, come al solito in questo programma, e seguire la scaletta che tu hai scelto. Abbiamo scelto il criterio cronologico, grosso modo, quindi partiamo proprio con il 1970-69. È chiaro che High Tide, Sea Shanties, che ascolteremo tra poco, è un 69, però lo mettiamo in una fase iniziale e ci spiegherai anche tu il perché. Allora, Beppe, se sei d'accordo, io passerei a un altro brano. Sì. Diciamo che appartiene al repertorio dei Black Widow, che è Way to Power, dal primo album Sacrifice, però ascoltate in versione live. La scelta è stata tua e poi ci motiverai anche in questo caso il perché di questa versione, il perché dei Black Widow, al di là di tutta l'importanza che io ho già personalmente conferito a questa band, tributando vari passaggi durante la mia, diciamo, carriera radiofonica. Va bene, allora 335 100 7777, stanno già arrivando i messaggi, dopo ne leggiamo un po' una carrellata, e anche le mail mox@radiorockfm.com. Il prossimo brano è Way to Power dei Black Widow, ascoltato in versione live, e quindi questi sono i Black Widow. Black Widow dal vivo nel 1970, questo era un tour per promuovere proprio il primo album Sacrifice, una vera e propria pietra miliare nella storia della musica rock. Loro erano un po' all'alter ego dei Black Sabbath, ma io ho qua un esperto, un altro dei meriti di Beppe Riva è stato anche quello di parlare sicuramente tra i primi di questa formazione, anche se bisogna dire che Black Widow nei primi anni 70 suonarono dal vivo in Italia come supporto, credo, agli Yes, esatto, qualcosa del genere. Sì. Quindi sono ricordi che tu potresti anche avere dal punto di vista personale. Allora, due parole sui Black Widow e poi passiamo anche ai messaggi degli ascoltatori, perché è un rito qui a Dizzy Rider. Certamente. A te la parola, Beppe. Beh, per quanto riguarda i Black Widow, è vero, in Italia la critica di inizio anni 70 era molto attenta e queste formazioni le scovava addirittura talvolta attributandogli degli onori maggiori che non in Inghilterra. Il Inghilterra. Abbiamo però scelto anche questa versione live dal recente CD DVD del 2007 che si chiama Demons of the Night, Gather to See Black Widow, che perché rende secondo me probabilmente più giustizia in assoluto al suono dei Black Widow. In questo caso, tra l'altro, abbiamo sentito anche delle chitarre più doomy, quasi più vicine ai Black Sabbath nell'esecuzione dal vivo, rispetto a quello un pochino meno, diciamo, aggressivo dell'esecuzione di Sacrifice, che comunque resta era più edulcorata, e il loro capolavoro assoluto in studio. E devo dire, vabbè, io ho iniziato subito, quando ho iniziato a scrivere su Kerilla, a recuperare un po' anche queste formazioni, perché comunque se ne era un po' perso il ricordo. Per quanto riguarda poi Black Widow, e poi se ne ascolteremo anche altre formazioni di questo genere, io sono sempre stato affascinato dalle tematiche di carattere occulto, al punto che sono stato anche spesso equivocato, specie nel periodo in cui avevo lanciato quello che poi è diventato la formazione, direi, heavy metal da culto per eccellenza in Italia, ossia DTSS, esatto. Appunto. DTSS che tra l'altro non a caso erano profondamente influenzati dai Black Widow. Infatti poi si sono occupati di coverizzare brani proprio da Sacrifice, esatto, in una loro seconda fase, in una fase successiva. Va bene, Beppe, arrivano una marea di messaggi come al solito ad Easy Rider, quindi io leggerei quantomeno i nomi degli amici che scrivono. Partiamo da in ordine cronologico, da Daniele, che insomma ringrazia di questa cosa qua, sostanzialmente di questa trasmissione, e per l'occasione del fatto che tu sia qua. Un saluto a Brutus da Genova. Andre dice un saluto a te e al tuo illustrissimo ospite, il maestro Beppe Riva. Poi abbiamo Cattivi che dice buonasera, un saluto speciale a sua maestà Beppe Riva. Nonostante siano passati 25 anni, giuro che non me la sono andata a rileggere, ma ce l'ho ancora ben impressa nella mente. Beppe si ricorda quale sua mitica recensione iniziava con Apologia della follia scardinatrice. Wow. Potrebbe essere, però non ci giurerei, potrebbe essere però Fire Down Under dei Riot. Grandissimo, guarda, avevo voglia di portarlo, spesso lo programmo, ed è un altro di quei dischi che grazie a te, insomma, è nelle case di molti italiani, ecco. Ecco, io devo dire, ma solo un appunto veloce, che in questa trasmissione più che altro, visto che in passato in qualche apparizione rara che ho fatto mi sono occupato quasi sempre di heavy metal, questa invece è una trasmissione anche in linea con le cose che fai tu, che recupera di più le radici. Ecco. Recupera, certo, sì, no, poi ecco, è importante anche questo momento inquadrare bene la figura di Beppe Riva, che è molto più trasversale di quello che uno potrebbe pensare, perché se uno si limita agli articoli Hard and Heavy non sa che in realtà è un uomo di una cultura musicale assolutamente a 360 gradi, e che al quale nulla sfugge. Poi magari non ha mai parlato in vita sua di George Benson, ma questo non esclude che, no, voglio dire, non lo conosca, insomma. Sì, magari non è esattamente, no, il mio feeling. Certo, però c'è. Insomma, nel Beppe Riva è identificato sempre con la heavy metal, ma invece c'è moltissima psichedelia, moltissimo progressive, e insomma è molto folk, insomma ci sono tante cose che stasera troveremo. Anche già il prossimo pezzo è uno di quei pezzi, secondo me, scelto da te sempre di confine, di assoluto confine tra i generi che poi hanno determinato la nascita dei generi di cui ti sei occupato tu. Proseguo velocemente con i saluti di chi continua a scrivere al 335-100-7777. C'è anche Maurizio, c'è Veronica, felice di aver ascoltato Emerson, Lake and Palmer. Acio 318, sì, le foto sono arrivate, sì, moltissime foto, devo rispondere. Giulio è un altro amico che scrive, poi Fefo ovviamente, poi chi altri abbiamo? Scusate, ma anche è difficile stare dietro i messaggi. Sono molto entusiasta per l'ospite di stasera. Proprio in questi giorni ho conosciuto un signore che ha vissuto in pieno quegli anni, e anche lui ama i Black Sabbath, e per me è fantastico perché lo considero un maestro. Bene, infatti siamo circondati da maestri. Alberto dice forse questa è la notte dove tutti noi diverremo illuminati, e poi qualcuno mi chiede cosa pensi dei Trip. Vuoi rispondere subito? Beh, direi che magari, visto che ci siamo prolungati, sentiamo il brano e poi parliamo dei Trip. Assolutamente, sì. Allora, il prossimo brano è dall'album d'esordio, anche in questo caso, degli High Tide, quindi dopo i Black Widow, per par condicio sarebbe il caso di dire, si ascolta Sea Shanties degli High Tide, 1969, il brano scelto da Beppe è That Warmed Up. That Warmed Up, il titolo di questo grandioso, indiavolato, è il caso di dire, brano degli High Tide. Pensate, alla fine degli anni 60 un suono così non era assolutamente previsto, era sicuramente scioccante, penso che chi fosse abituato alle sonorità più spensierate, più beat, più pop forse di quella decade così spensierata, insomma. Un gruppo come gli High Tide faceva ben presagire quello che poi sarebbe successo nella decade successiva. Sì, assolutamente devastante. Infatti si poteva definire una gigantesca onda di musica pesante. Mi sembra che così fosse stato scritto. Tra l'altro in Italia, dove gli High Tide avevano avuto proprio più riconoscimento e più culto che non in Inghilterra, dove tutto sommato non sono mai stati trattati come un gruppo del tenore che meritano. Comunque è difficile pensare in quel periodo a qualcosa di più forte della chitarra di Tony Hill, mescolata insieme alla sonorità stridule del violino di Simon House, che davano proprio adito a un insieme molto heavy di progressive e di post-psichedelia che era appunto presente in questo primo album, Sea Shanties, soprattutto in questo caso più duro. Poi in un secondo, High Tide omonimo, invece anche aperto sonorità più sofisticate. Grandissimi comunque, veramente, per me estremamente influenti per quanto riguarda almeno le mie scelte musicali. Mi chiedevano, ricordiamo Simon House, poi entra nel filo degli Oakwind, è un gruppo da culto assolutamente, del freak underground inglese, esatto. E mi chiedevano prima dei Trip di Giovescovi, mi sembra che fosse anche una richiesta tutto sommato in assonanza con quello che aveva il brano che abbiamo proposto in partenza, perché avevo avuto occasione di parlare con Giovescovi solo all'inizio degli anni 80, quando tra l'altro veramente messo in piedi proprio un super gruppo hard rock con Steven Tessarin dei Van Halen, che si chiamano proprio Knife Edge. lui stesso mi aveva detto che aveva battezzati come tali, pur essendo un gruppo proprio di heavy rock sullo stile anche dei Deep Purple, dei Rainbow, così. Abbiamo fatto un bellissimo demo che poi non ha avuto seguito e che mi è stato sottratto da un critico musicale che non me l'ha più restituito, però non faccio nomi perché non è simpatico, non è corretto, ecco, no. Dice, e Giovescovi era un grande ammiratore di Emerson. E per quanto riguarda i Trip, i Trip hanno vissuto una delle epoche di maggior gloria della musica rock italiana, il cosiddetto pop romantico o comunque progressive italiano, con album come Caronte, Atlantide e poi Wind of Change, che tra l'altro è il più affine proprio a Time of Change, il quarto ed ultimo album dei Trip. Mi sono clamorosamente confuso con gli Scorpions, esatto. Ecco, insomma, parlo ogni tanto, ho la tendenza a parlare troppo velocemente. No, è vero, tra l'altro tra i primi anche a sdoganare una sorta di hard progressive, certo, con dischi come Caronte, ricordato proprio tra i primi album di hard rock progressivo degli anni 70 italiani. Allora, io vorrei continuare a salutare gli amici che scrivono. Lopez da Genova ovviamente dice grande Beppe e grande Mox, grazie mille. Poi c'è chi scrive anche a mox@radiorockfm.com, come amico Federico, che dice ciao mitico Beppe da Clusone, un saluto al guru del giornalismo rock italiano. Mi piace che definiate così questo ospite, perché è una cosa che condivido anch'io, un pensiero che condivido anch'io per, ripeto, l'importanza, per i meriti che ha avuto questa persona, sdoganando veramente per primo alcuni nomi importanti della storia del rock. Allora, nel frattempo il brano degli High Tide, Imperversa, ancora sotto le nostre voci, e io approfitto per introdurvi, poi ne parliamo insieme a Beppe, per introdurvi il prossimo brano, che appartiene al repertorio del primo progressive inglese, l'etichetta La Vertigo. Loro si chiamavano Primavera, e dal loro primo album del 1971 Beppe ha scelto The Prisoner. Ziguli, la mitica caramella che ci fa tornare bambini. Ti ricordi quante ne mangiavi da piccolo? Anche oggi sono la tua caramella preferita? Certo, con una varietà tale di gusti, non può che farti nascere un sorriso. Una caramella Ziguli. Ora le tue caramelle Ziguli le puoi trovare nelle pratiche confezioni Pocket, nei gusti frutta, liquirizia e cioccolato. Chiedile al tuo bar. Ziguli, la caramella che non si scorda mai. Rock FM Spot. Ciao, sono Ezio Guaitamacchi. Se ti piace la musica che ascolti su Rock FM, ti invito a leggere Jam, il mensile che dirigo dal 1994. sul numero di maggio, Chuck Berry, il primo Guitar Hero, e articoli su Van der Graaf e After Hours. Inoltre più di 100 recensioni di CD e DVD. Jam, quando il rock è una cosa seria. Starla, il primo album di una rock band rivelazione. Starla, tensione, rabbia, rock alternativo. In CD, in digitale ed in tour. Starla, l'album di debutto su etichetta Orange Park Records. Rock FM presenta Cinema Cinema, quotidiano di informazione cinematografica. 01 Distribution presenta finalmente Kevin, Samantha, Charlotte, Miranda sono tornate per il film più atteso dell'anno. Abbiamo deciso di sposarci. Che dici, un diamante? Non regalarmi un diamante, solo un armadio gigantesco. Sex and the City, dal 30 maggio al cinema. Cinema Cinema ha trovato un tesoro negli abissi dell'oceano, la più grande flotta del tesoro della storia. Non è possibile! Pensi che ti metterei su questo? Perché no? Sei un bugiardo. E tutti ne vogliono una parte. Trova il tesoro e non ti ammazzo. Dal regista di Hitch, Matthew McConaughey. Sei stata colpita! Kate Hudson. Ma sei diventato pazzo! Tutti pazzi per loro, al cinema. Cinema Cinema, dai produttori di The Grudge. Il sesso e l'omicidio sono gli unici veri piaceri che mi rimangono. Una volta che ne fai parte, non puoi più venirne fuori. Lucy Liu. La morte è diversa adesso. La setta delle tenebre, dal 23 maggio al cinema. Cinema Cinema, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. State ascoltando Easy Rider. Thank you. da qui venita. Rientro con la lettura opportuna di un messaggio che arriva alla casella di posta elettronica mox@radiorockfm.com che recita semplicemente: un saluto al grande Beppe Riva da Luca e dagli utenti di Limbo Rush per aver contribuito ad ampliare la nostra cultura musicale. Grandi Spring, un piccolo grande capolavoro del prog inglese. A presto. Questo è l'amico Luca da Savona, che io voglio ringraziare anche per il suo commento, oltre che all'ospite, anche sul disco degli Spring che abbiamo appena ascoltato e sul quale io ho fatto un errore tecnico. Quindi pregherei Beppe di correggere la dicitura mia. E sono degli errori che si fanno anche nella fretta di presentare le cose, anche in tempi stringati come quelli che abbiamo. Semplicemente l'album degli Spring è uscito per l'etichetta sussidiaria della RCA, cioè la Neon, la sussidiaria underground progressive della RCA, con una splendida copertina trifold, cioè con sei facciate, tre apribili, che illustrava, cioè fotografava meglio, un soldato morente lungo un torrente con il sangue che colava lungo il ruscello, tanto per rimanere in tema di visioni un po' blechiane, un po' ossianiche. Comunque gli Spring avevano addirittura tre mellotron in organico, uno strumento tra l'altro delicatissimo, molto in voga all'epoca, sulla scia dei King Crimson, dei Moody Blues, dei Barclay James Harvest, di qualcosa dei Genesis in questi passaggi di tastiere che abbiamo ascoltato nel film, ed è un grandissimo album da culto dell'underground inglese progressive. Tra l'altro con quelle foto con loro addirittura con sullo sfondo un castello, proprio reminiscenze ai vecchi Inghilterra. No, è vero, un anche, flavor fantastico. Anche questa è una pietra miliare. The Prisoner era proprio la traccia di apertura, 8x10 era il sottotitolo, insomma il complemento al titolo di questo album che io già vi avevo presentato sporadicamente durante Easy Rider, proprio in virtù del fatto che ci piace spaziare moltissimo nell'underground europeo, insomma in ogni nazione di questa. Beppe non lo sa perché non è un ascoltatore di Easy Rider per questioni geografiche, purtroppo vive in una città nella quale Rock FM non si prende, per cui è un po' è vagamente all'oscuro di quello che succede durante le due ore di Easy Rider. Noi abbiamo ti conosco di fama. Allora io vorrei proseguire con ancora dei saluti. Un amico che scrive da Lucca e dice: grande trasmissione. Nico si offre come Rodi della Rock FM All Stars Band, quindi un altro fedelissimo di questa radio, di questo programma. Marione invece manda un commento relativo alla canzone Helter Skelter, che dice: anche Helter Skelter per il 1968 era qualcosa di sconvolgente e non era sicuramente beat. Certo, è chiaro che la scena era dominata dalle sonorità più leggere, però esistevano anche i gruppi duri, anche i Kinks nel 64 distorcevano le chitarre, voglio dire. C'era Yuri Gatmi, che poi è diventato un classico del heavy metal nella versione di Van Halen. Infatti, piuttosto che gli Who, insomma, che già spaccavano tutto. Però ecco, un esempio di roba veramente pesante era ben rappresentato prima che dai Black Sabbath, dagli High Tide, esatto. Per questioni cronologiche ovviamente, certo. Roby Taxi dice: ciao Beppe, ti seguivo su Rockerilla da vecchio amatore del metal, un saluto e un grazie. Quindi ennesimo ringraziamento e riconoscenza all'operato di Beppe Riva. E poi una domanda, vediamo se sai rispondere tu, cioè più che altro se tu conosci i Forever Amber con un concept album sull'amore, The Love Cycle, edito solo in 99 copie nell'estate del 68. Sì, c'è una ristampa, io possiedo quello ovviamente, okay, l'originale, okay, è leggermente fuori budget, cioè, a meno che uno voglia consumarsi. No, ma sì, l'ascoltatrice si limita a chiederti se lo conosci, non tanto che tipo di versione tu sia in possesso. Insomma. No, ho una versione in CD e sono anche abbastanza sorpreso che un'ascoltatrice citi proprio un disco così, perché sicuramente non è tra le ristampe più famose. Ecco. No, ma è un'ascoltatrice speciale, molto attenta. Giovane molto, e ricercatrice molto insomma. Specializzata, devo dire, complimenti. Vabbè. Sì, sì, infatti mi ha chiesto anche magari ci può insegnare qualcosa. no, ma fa parte di questo circolo di appassionati di underground. Allora, a proposito di underground, il prossimo brano, Beppe, prima di parlarne lo ascoltiamo, sì. Come ormai abbiamo preso un po' il ritmo, e Necromandus è il nome di questo gruppo. Si fa un salto ancora indietro, stiamo andando in ordine cronologico, quindi siamo già nel 72-73, ok? Sì. Allora, dico il titolo del pezzo, lo ascoltiamo e poi tu ci inquadri la situazione. Necromandus è il gruppo e Night Jar è il titolo della canzone. We'll be right back. Night Jar, questo è il titolo della canzone dei Necromandus, che pur essendo datata 1973, adesso mi correggerà se sbaglio l'amico Beppe Riva che mi sta tenendo compagnia oggi a Easy Rider, anzi ci sta tenendo compagnia, suona decisamente avanti, perché sembra assolutamente seminale per quella che è stata la New Wave of British Heavy Metal, almeno si disquisiva così fuori onda. Allora, Necromandus, chi sono costoro, Beppe? Beh, i Necromandus sono uno di quegli esempi di grande gruppo underground inglese che per fortuna gli appassionati hanno avuto modo di conoscere solo a posteriori, molti ma molti anni dopo la loro sparizione dalle scene, per appunto ristampe, che poi praticamente non sono ristampe ma sono prime edizioni di dischi che erano stati concepiti e registrati all'epoca. In questo caso si trattava di un disco e di un gruppo prodotto da niente meno che da Tony Iommi dei Black Sabbath, che doveva far uscire questo album che nella ristampa si chiama Orexis of Death, ma precedentemente era uscita anche un'altra ristampa in vinile, praticamente ormai reperibile alla fine degli anni Ottanta, di cui mi sfugge sinceramente il titolo. Comunque Orexis of Death si trova sia in vinile che in CD, doveva essere prodotto invece da Tony Iommi per la Vertigo. Infatti, e sarebbe dovuto e sarebbe stato un disco assolutamente. Tra l'altro i Necromandus hanno spunti nettamente sabbattiani come questa Night Jar, però quello che è veramente non è un caso che ci sia lo zampino di Tony Iommi. Però è curioso il fatto che hanno questo stile alla Black Sabbath però accelerato, che è stato poi ripreso effettivamente da vari gruppi della New Wave of British Heavy Metal. Ecco, questo incedere così. Menzionavamo anche fuori onda un altro gruppo, anzi quasi, io ho una carta da giocare, aspetta, eccola qua. Ecco, questa di solito la uso come base, anzi la lascio volentieri in sottofondo, sono gli Armageddon, quindi un paio d'anni dopo, 1975, anche loro potrebbero rientrare in questo calderone di bands inglesi degli anni 70, la prima metà degli anni 70, che anticipavano questo discorso della New Wave British Heavy Metal, come hai indicato tu giustamente. Ma quello che penso, vabbè, adesso mi faccio, non voglio farmi una sorta di autocelebrazione perché non è il caso, però diciamo quello non che hai bisogno, ho cercato di quello che ho cercato di presentare io quando ho iniziato a scrivere, proprio basandomi sull'heavy metal, che poi era una heavy metal di inizio anni 80, che poi era effettivamente una filiazione delle mie passioni d'origine legate all'hard rock, all'heavy rock, era proprio il fatto di cercare di ritrovare anche un po' delle ragioni storiche di questo fenomeno, che non nasceva dal nulla ma nasceva da basi di questo tipo. E mi ricordo che fin dai primi numeri della rubrica Hard & Heavy di Rockerilla, credo non certo tra gli ultimi, anzi forse proprio tra i primi ad aver parlato di formazioni di questo genere, dedicando una rubrica proprio di dischi del passato. Relics. Esatto. Relics. Allora guarda, brevemente Beppe, una curiosità che ho io ma che penso che abbiano anche molti ascoltatori, c'è anche chi continua a scrivermi alla mail firmandosi Giuffria75 dicendo dicendo mi vendi, ciao Beppe, mi vendi il demo dei Death SS del 1981? Quale? Ornid God of the Witches? Sicuramente quello. Non ce l'ho più, mi è stato anche quello trafugato dallo stesso critico musicale quando è stato messo in vinile a suo tempo, va bene. E poi aggiungono una digressione di tipo calcistico che, vabbè, te la concedo. Un saluto al mitico Beppe Riva, so che è interista. Previsione per domenica prossima? Allora, devo dire che sono veramente preoccupato. Sono veramente preoccupato, però io sono, nel caso dell'Inter, spero sempre fino alla fine, però devo dire che ci siamo mangiati un paio di match point. La speranza è sempre l'ultima a morire, però. Sì, in questo momento la situazione è sicuramente difficile, spero di gioire perché soffro già abbastanza. Va bene, allora no, invece la mia domanda era più inerente. un ricordo da parte tua, quando il giovane Beppe Riva insieme al giovane Beppe Badino, a non so chi c'era ancora, Giancarlo Trombetti, Pier Giorgio Brunelli, Claudio Sorge, insomma nomi illustri, penne illustri del giornalismo rock italiano, decidete di assemblarvi e di dare vita a questa fanzine che poi si espande e diventa un vero e proprio giornale di riferimento per il rock in Italia, ossia Rockerilla. In che anno siamo? 78-79? No, allora innanzitutto è stato così, perché bisogna rendere merito e giustizia ai fatti. Allora, io non ho fondato assolutamente Rockerilla è stata fondata, se non vado errato, nel 78, poco dopo, in quel di Savona, in quel di Savona, di Cairo Montenotte, in provincia di Savona, perché questo è giusto citarlo, perché indubbiamente Rockerilla per la cultura rock italiana è stato fondamentale, anche perché ha cominciato a parlare di formazione, a parte del punk e della new wave, che loro sono nati fondamentalmente per quello, però hanno cominciato poi a dare spazio, come nel mio caso per heavy metal, per qualsiasi tipo di musica che in Italia fosse sottovalutata o non trattata adeguatamente dalla stampa ufficiale. Comunque il fondatore vero è Beppe Badino, insieme a un collega appassionato di punk di cui sono un po' perse le tracce da molto tempo, che si chiamava Sandro Priarone. Sì. Badino è stato lui in pratica a, tra virgolette, scoprirmi e volermi sul giornale, leggendo una mia vecchia recensione che era apparsa anni e anni prima di Tyranny and Mutation dei Blue Oyster Cult su Ciao 2001, che era il settimanale ufficiale rock. Certo. C'era una rubrica. Perdonami, però questa mi manca, cioè Tyranny and Mutation, io mi ricordo che è un disco del 73. Tu l'hai fatta nel 73 questa recensione? No, però l'ho fatta penso che fosse un anno dopo al massimo, nel 74. Ma perché non era una recensione fatta da un giornalista, bensì era una rubrica dedicata ai lettori, dove si vinceva un LP se veniva pubblicata la recensione. Io ho mandato questa recensione, in quella settimana ho vinto. Che LP vincesti? Ho vinto un LP, l'LP solo di Phil Manzanera dei Roxy Music, non era male. I Roxy Music li amavo, i Roxy Music dell'epoca li amavo molto. L'album di Manzanera un pochino di meno, però piuttosto che niente, visto che allora dei soldi scarseggiavano. Una piccola soddisfazione, anche perché avrai avuto nel 74, insomma, minorenne sicuramente. Io sono del 1956, perciò vabbè, dai, ecco, si fa qualche calcolo. Eri minorenne, dai. Più o meno. Ecco. Comunque, niente, in sintesi veloce, Badino ha letto questa recensione, allora era pubblicata, non c'erano problemi di privacy, era pubblicata l'indirizzo del lettore, scrittore, e mi contattò. Intuizione fantastica, non lo sapevo. Questo non lo so, forse sì. Molto curioso. Comunque Claudio Sorge era già nello staff, ma proveniva, non ha fondato neanche lui Rockerilla, e proveniva dal Mucchio Selvaggio, da cui si è staccato all'epoca proprio per la sua passione verso questo tipo di musica, mentre Trombetti, Brunelli eccetera sono venuti più tardi, questo su mia iniziativa, perché volevo estendere oltre al sottoscritto, volevo che ovviamente la rubrica dedicata all'Ardenevi, esatto. Fantastico. Va bene, invece il prossimo disco non ha bisogno di grandi presentazioni, è un classico di Easy Rider, molti di voi saranno contenti di risentire questa canzone che si intitola Killer, è del 1970, è il terzo album dei Van der Graaf Generator. Ci tengo a sottolineare che questa volta non l'ho scelta io, ma l'ha scelta Beppe Riva. And Killer, Killer, ovviamente un classico Van der Graaf Generator dall'album H2E, Who I'm the Only One, sì. E sono felice di condividere con Beppe uno degli ascolti preferiti dal sottoscritto, quindi. Ma sai, qua anche nella mia passione per i Van der Graaf è nata anche lì dal fatto che Peter Emil all'inizio è partito come, era famoso per il suo lirismo oscuro, diciamo, con simbolismi molto molto cupi. Tra l'altro già il primo album era un disco con un'accezione dark, sì, sicuramente. E tra l'altro Killer, per chi non lo sapesse, ma sento che ci sono veramente degli ascoltatori preparatissimi, perché ha telefonato un ascoltatore dicendo che la versione in vinile dei Necromandus originale, che peraltro, perché adesso vi racconto com'è la copertina, ovvero c'è un disegno non molto bello, in vero, di un monaco che si affaccia a una finestra con tutta l'edera intorno, ed era su Reflection, adesso questo me lo sono ricordato, ne parlavo con Filippo, ed era in vinile limitato questa prima edizione, poi sparita da circolazione. Comunque dicevo di Killer è lo squalo, e parla della vita, della solitudine dello squalo nel mare, perché ovviamente tutti lo rifuggono, perché per ovvi motivi, e non solo, poi questo, a dire la verità, non so se dal punto di vista geologico è corretto, però Emil dice che quando muore la madre per dare alla luce il figlio, cioè quando la madre dà alla luce il figlio, muore perché non possono esistere due killer nello stesso posto. Non so se sia proprio vero che uno squalo, quando c'è, cioè una squalo femmina, quando partorisce poi muore, comunque questo è quello che dice Peter Emil in Killer. Fantastico, fantastico. No, io anch'io avevo vagamente approfondito il testo di Killer, sapevo che parlava dello squalo, ma questa appunto simbolica metafora con la solitudine che appunto si prova nella vita umana, diciamo, con una certa frequenza, insomma, è tipica anche delle atmosfere cupe del progressive e del gruppo prog per antonomasia, cioè i Van der Graaf Generator, che sempre disquisendo fuori onda associavamo, accomunavamo insomma al mondo, al confine che c'è tra hard rock e progressive, c'è una condivisione di mood, poi c'è stilisticamente una differenza esecutiva. Perfetto, giusto? Sì, ma per esempio Killer, come dicevamo prima, è imperniata proprio su un riff, che poi non sia il tipico riff di chitarra dell'hard rock, ma un riff fatto col sax, con lo sfondo dell'organo, però con un'atmosfera, tu hai sottolineato giustamente il mood, molto plumbea, molto oscura, e queste sono le affinità che penso possano permettere a chiunque con la mente leggermente aperta di apprezzare sia gli uni che gli altri. Esattamente, infatti si andava a braccetto, ecco, in ambiti metal, in ambiti prog, il pubblico spesso è stato il medesimo. Adesso però passiamo dal macabro a qualcosa di più sessuale, diciamo. Sì, parliamo, esatto, quindi prendiamo in mano un album dei Free. I Free sono importanti perché i leader erano tali: Paul Rogers, attuale cantante di Queen, oltre che grande cantante nei Bad Company, Paul Kossoff, chitarrista scomparso purtroppo e fondamentale pedina di un genere definito British Blues, quindi un'ondata di blues già dalla fine degli anni 60. Insomma, l'album Fire and Water del 71 è il loro più di maggior successo, ecco, si può così definire. Sì, è il loro classico in ogni caso. Tu hai scelto un brano da questo per da me questo è fantastico. Brano. Il fantastico, ma io invito a ascoltare l'assolo di chitarra con l'accompagnamento del basso, perché è una cosa dal feeling veramente irresistibile. Va bene, allora nel frattempo i messaggi stanno arrivando copiosi, però io, vabbè, adesso lascio ancora, purtroppo, insomma, con Beppe Riva dovremmo fare una 24 ore non stop, perché la musica è veramente infinita, invece abbiamo solo 2 ore che sono davvero troppo scarse. Siamo già nella seconda ora, quindi io accenderei un frammento di questa Mr. Big, che è il brano che hai scelto da Fire and Water dei Free. Oh, got to be so Mr. Bigger. Ma questo brano si intitola Mr. Big. Pensi che i Mr. Big, quelli americani, quelli di Billy Sheehan, abbiano preso ispirazione per il loro nome da questa canzone? Sembra proprio di sì, però pur avendo io apprezzato i Mr. Big dal punto di vista della qualità degli strumentisti, cioè la capacità emozionale di questo gruppo e di questo brano è una cosa terrificante, cioè non, con rari paragoni veramente, soprattutto il lavoro strumentale tra Kossoff e il basso di Fraser è dirompente. Certo, è certo. Vabbè, è chiaro che in Inghilterra in termini di hard rock stiamo dimostrando che insomma non sono mai stati secondi a nessuno. No, assolutamente. Beppe, no. Velocemente, gli amici che scrivono sono sempre moltissimi e io voglio dare spazio anche a loro. Certo. Allora, un amico scrive, innanzitutto scrive grazie, si chiama Michele e scrive: leggo da Metal Shock 44. Nessun dubbio che When Dream and They Unite sia destinato a marcare a fuoco non solo il malcapitato di copertina, ma tutto il 1989. E mi accorgo persino di essere restrittivo, perché questi coraggiosi potrebbero contrassegnare un'era. Ecco, queste sono parole tue. Beh, cosa vuoi, sono un profeta. Ti parlavo ovviamente di Dream Theater. Comunque ricordo benissimo di questa recensione che era stata addirittura messa, per fortuna allora non avevamo grossi problemi con la promozione discografica che imponeva delle scelte piuttosto che non delle altre, e se io decidevo di fare top metal album, un album qualsiasi, andava quello, non c'era problema. Magari ogni tanto facevo anche delle scelte che erano discutibili, ci mancherebbe, però in questo caso insomma i Dream Theater pensavo tra l'altro che almeno dal punto di vista commerciale fosse stato un bluff, perché proprio questo primo album non ha avuto il successo che hanno avuto dopo. Però il disco era quello che tutti sappiamo nel suo ambito, certo. E di conseguenza poi vabbè è stato inevitabile che diventassero così importanti. Ottimo. Allora, Apologia della follia scardinatrice apriva la recensione del mitico album d'esordio dei Metallica, Kill 'Em All. Ah, quindi mi sono confuso. Per la precisione. Beh, sì, comunque non mi ricordo neanche più quello che ho scritto. Due dischi violenti, insomma. Sì, cioè, comunque non è l'età, è la sofferenza indotta dall'Inter. E adesso sì che sono andato a controllare sul numero 37 di Rockerilla, questo era l'amico Kattivik. Però ringrazio questi signori così attenti, veramente. Esatto. Sono commosso, in genere non mi sciolgo in lacrime, però potrei fare un tentativo. Poi saluto volentieri Matt da Forlì che dice Easy Rider numero 1, grandi Mox e Beppe. Poi saluti a me e al suo ospite, ovviamente, quindi a Beppe, e dice: sapete dirmi che fine ha fatto Terry Brooks e Strange, dei quali posseggo un vinile rosso e uno giallo che ho molto amato. Questo è l'amico Ciro 1948. Rispondi tu, almeno per quanto ne sai, Beppe. Allora, tutti i dischi Terry Brooks e Strange erano stati recentemente ristampati, diciamo all'inizio della carriera della Karma erano stati ristampati tutti in vinile, non ricordo se in vinile colorata, come due originali. Mi ricordo, io so di avere una versione di High Flyer con del vinile colorato, forse anche più di un colore, e poi ne ho uno precedente azzurro comunque, che forse è quello che cita anche, però sinceramente scusatemi ma non ricordo il titolo. So che di Terry Brooks e Strange però da quel periodo mi risulta si siano perse un po' le tracce, anche Mangora della Karma, che era un loro estimatore, infatti non è più riuscito a ripescare loro tracce. Potrei però chiaramente sbagliarmi, non ho visto però notizie recenti nei loro confronti. Beppe, però hai menzionato un personaggio che cade un po' a fagiolo, certo. Vista la domanda anche di un altro ascoltatore che si chiama Luca, che manda un abbraccio e dice: grande trasmissione, ma secondo voi le stelle di Mario Schifano sono da citare? Fondamentali. Allora, caro Luca, le stelle di Mario Schifano, parlando di Mangora, che è l'uomo che si occupa in Italia più di altri di ristampe, sì, di chicche da vari luoghi del mondo, e alcune spesso anche italiane. Per quanto riguarda le stelle di Mario Schifano, insomma, le abbiamo ascoltate a Easy Rider più volte, 1967, sono sì fondamentali per una scena italiana. Beh, è considerato italiana, un classico da culto della scena psichedelica italiana. 500 copie che l'hanno reso un disco non solo introvabile ma estremamente costoso, certo, anche per l'abbinamento con l'artista, quindi collezionabile, esatto, su due fronti, quello musicale, quello socio-musicale e quello artistico, e ovviamente era l'idea che si rifaceva alla Factory, cioè ad Andy Warhol con i Velvet Underground. Bravo, bravissimo. Quindi questa è la matrice americana da cui appunto Schifano e le sue stelle hanno preso ispirazione. Continuiamo a salutare gli amici. Uno dice: ho il vinile Black Sabbath, no, ho vinile Vertigo al centro disco spirale bianco e nero originale. A che cosa poteva riferirsi dei dischi che abbiamo ascoltato prima? Non agli Spring, abbiamo capito. No, beh, ma sto pensando di... Non mi sembra che ci siano album della Vertigo. Abbiamo citato i Necromandus che dovevano registrare per la Vertigo, ma così non fu purtroppo per loro. E quindi per il momento non abbiamo... Non abbiamo riferimenti. Aspetta, Beppe, a parte questa. Beh, questo è sottofondo. Ma questa è la base. Questa è la base, giustamente. Sì. Poi un amico scrive una cosa, però casualmente mi scrive una cosa sbagliata. Ecco, stavolta non ho sbagliato. Dice: Killer non è nel secondo album di Van der Graaf del 70, no, è nel terzo. Ma non hai detto, ma mi sembra che tu abbia detto il terzo. Ho detto il terzo, no, no, lui ha scritto, ma non è nel secondo, no, in realtà è. No, nel no, terzo. C'era il primo che era il primo è non, Aerosol Grey Machines. Che non era su Charisma e da molti era stato anche dimenticato. Sì, ecco, sì, sì. Anche poi registrato a fine 68, quindi figurati. Esatto, poi il secondo, il primo su Charisma era Velis. The Least We Can Do His Wave, esatto. His Way to Each Other. E poi c'era e poi questo H2E, esattamente. Quindi poi, stavolta è giusto. Un saluto a un amico che è molto giovane, infatti si firma Frinz 78, quindi è nato nel 78 e probabilmente non ha ben presente chi tu possa essere, e mi dice: bella Mox, ma Riva quante ne sa? Stasera hai il filo da torcere. Allora, forse ti sei perso l'inizio trasmissione, questa è una puntata dedicata ai maestri di Easy Rider, quindi parte della mia cultura musicale è dovuta anche a questa persona che in questo momento siede di fronte a me. Questo, ecco, posso accennare una cosa? Guarda, ci tengo, io veramente la cosa, una delle diciamo poche soddisfazioni che possono essere riservate da questo lavoro che per me ormai comunque è trascorso, di critico musicale, è stato quello di avere in qualche modo ispirato alcuni personaggi che effettivamente poi hanno operato molto bene in questo settore. Ce n'è anche a fianco uno. Beh, Filippo è un ragazzo veramente di estrema cultura musicale, tra l'altro oltre a te naturalmente, che anzi non sapevo nemmeno diciamo di questa tua conoscenza nei miei confronti, di cui ti ringrazio anche di fronte al tuo pubblico che mi sembra intrattieni in maniera eccellente. È reciproca la cosa. Ecco, e infatti volevo anche ricordare in breve due ragazzi che lavorano molto nell'ambito dei siti metal, Stefano Ricetti di Trum, redattore di Trum Metal, e Federico Martinelli di Slam, che tra l'altro mi avevano fatto delle interviste sui loro siti in questo periodo in cui ero comunque scomparso alle scene. Io li ringrazio per l'attenzione che hanno avuto nei miei confronti. Bene, allora mi fai cogliere occasione per, visto che non esistono siti di riferimento per quanto riguarda Beppe Riva come entità, allora diamo questi, quindi trumetal.it, sul quale si può trovare in archivio una spero e credo esauriente intervista a te, e poi quell'altra, l'altro sito quale può essere? No, è trumetal.it. No, l'altro è Slam, se non sbaglio, okay. Adesso non ricordo esattamente. Va bene, ricercate per chi ne vuole sapere di più e che magari non è in possesso di tutta la collezione dei vari Rockerilla piuttosto che Metal Shock o quegli sporadici numeri di Arden Devi. Ricordo bene che Arden Devi era una tua creatura? Sì, era sull'onda del successo che ha avuto la rubrica nell'ambito di Rockerilla, che devo dire che aveva suscitato anche un po' di fastidio in chi era molto legato alla New Wave e al punk, perché erano comunque considerati generi antagonisti al metal e all'hard rock, e si erano fatte queste tre creature, diciamo part-time, numeri speciali, che esaurirono anche tutta la loro tiratura prima che uscisse la prima rivista effettiva, poi periodica, dedicata solo al metal, che era correttamente HM, perché poi il Metal Shock è venuto successivamente, esatto. A mio avviso, se mi si permette, con maggior qualità, però questo è chiaramente discutibile, certo. Però le prime riviste, anche se diciamo non con scadenza periodica, interamente dedicate al metal in Italia, sono stati proprio questi tre numeri speciali di Arden Heavy. Infatti sono molte le domande che mi giungono sempre al 335 100 7777 da parte di ascoltatori di varie zone d'Italia, e voglio infatti approfittare per leggere anche quella di Daniele da Firenze, che parla proprio delle riviste. Dice: una domanda al maestro Riva: come sono messe le riviste Hard and Heavy italiane oggi rispetto a quella che è stata la tua epoca, insomma, ricordiamo che tu appunto da fine anni 70 fino a qualche anno fa insomma ti sei dedicato alla scrittura, quindi se segui ancora quello che è il panorama nelle edicole reale, visto che con l'avvento di internet è tutto un po' ridimensionato. Certo. No? Beh, allora devo dire che non seguo particolarmente le riviste italiane, però sicuramente ne vedo sprazzi, ecco. Non voglio fare dei commenti che possano apparire in qualche modo diciamo di comodo nei confronti anche di queste uscite. Mi sembra peraltro che ci sia comunque nell'ambito del metal molta passione da parte di chi le porta avanti, una cosa comunque generalizzata sulle varie riviste. Vedo, per quello che ho potuto vedere, molti ragazzi appassionati che si danno da fare nei rispettivi ambiti di competenza. Semplicemente mi sembra che la scena sia radicalmente cambiata rispetto allora, nel senso che anche che il metal negli anni 80, soprattutto nella prima metà, e poi, per carità, adesso stavo un po' riducendo la cosa, anche verso la fine nell'ambito più strettamente americano aveva dei grossi elementi di novità. Adesso diciamo che probabilmente gli elementi di novità si sono anche un po' assottigliati e in certi casi prevalgono anche degli stereotipi in maniera molto più netta che in passato. Però questo ammetto che può dipendere anche da un ascolto dovuto a una, diciamo, a una conoscenza del passato ampia, e anche da un'età che forse non è esattamente la più adatta per ascoltare i gruppi magari metal che citano gli Iron Maiden o gli Halloween. Va bene, allora abbiamo parlato ancora tanto, ma d'altronde non capita tutti i giorni di avere carature di questo genere in onda, e allora passiamo nuovamente alla musica, un altro brano scelto da Beppe, un altro classico anche in questo caso per Easy Rider, Quatermass dal loro primo album. Ne ascoltiamo solo un frammento perché ci sono ancora moltissime canzoni scelte che non è il caso di trascurare. We'll be right back. Up on the Ground dall'album d'esordio dei Quatermass, che trattasi di trio e incredibilmente trio senza chitarra, esattamente un po' come Emerson, Lake and Palmer, che in realtà sporadicamente la chitarra la tiravano fuori, insomma i Quatermass erano tastiere, basso e batteria. Un triangolo comunque eccezionale, poi molto potente, proprio un gruppo pioniere dell'heavy rock progressivo. E ricordiamo quanto anche i Rainbow abbiano avuto... Sì, che hanno tra l'altro rifatto proprio nel primo album un brano, Black Sheep of the Family, tratto da Quatermass. Esatto. Che erano gestiti da un altro grandissimo tastierista, purtroppo dimenticato, che era Peter Robinson. Un'altra curiosità che volevo dire brevemente, prima di chiudere questo lungo ciclo inglese che abbiamo fatto, è che Quatermass prendevano il nome dei telefilm del dottor Quatermass, della serie televisiva inglese Hammer Horror, che erano, era, io lo pronuncio male, scusate perché ho questo problema linguistico con la R. Esatto, e tanto perché tra l'altro l'iniziale è proprio il mio cognome. Comunque, appunto, questi, la Hammer è una casa di produzione inglese famosa per film terrorizzanti a basso budget, ma che costituiscono un grande cult nell'ambito cinematografico, e gli sono stati dedicati anche volumi, serie, eccetera. E il dottor Quatermass appunto era un protagonista, una specie di scienziato pazzo, se non vado errato, di queste serie. Fantastico, mi hai molto incuriosito con questa cosa, purtroppo io non ho avuto occasione di vederli. Di vederli neanche io. Però sarebbe simpatico riesumarli e insomma visionarli. Allora, trascuriamo ancora i messaggi perché voglio dare spazio ancora alla musica. Il prossimo brano ci fa spostare in America con una delle band di hard rock seminale, perché io lo dico sempre quando li programmo, hanno questa radice Van Halen, cioè anche i Van Halen hanno dei maestri. E tu poi confermerai, li possiamo ritrovare proprio nei Montrose, giusto? Tra l'altro prodotti in questo primo album proprio da Ted Templeman, che è stato il mentore dei Van Halen. Esatto, quindi tutto torna, i cerchi si chiudono. Allora ritroviamo questo classico dei Montrose 1973, attenzione, questa è Rock the Nation. Got it, Leah! Rock the Nation, dirompente canzone datata 1973, ma gli americani hanno sempre dimostrato di essere una spanna avanti, almeno dal punto di vista dei suoni, della tecnica. E Ronnie Montrose con il suo quartetto e con Sammy Hagar, poi nei Van Halen alla voce, poi vabbè, senza contare la sua carriera solista. Volevo raccontarti un aneddoto a riguardo. Innanzitutto, io in quel periodo leggevo molto la rivista francese Rock and Folk, che per molti era abbastanza seminale, e Rock and Folk dava molto spazio ai gruppi americani dell'onda di inizio anni 70, vale a dire in particolare Aerosmith, Blue Oyster Cult, Kiss, formazioni che di cui generalmente si parlava male in Italia. E proprio dei Montrose ricordo che li conobbi perché invece un critico italiano, anche lì non citiamolo, ma perché non deve essere un atteggiamento così derisorio, però talvolta quando qualcuno parla male di una cosa, però nei termini che ti può mettere interesse, poi suscita anche l'interesse all'ascolto. In quel caso mi ricordo che il critico su Ciao 2001 parlò di cataste di metallo accatastate malamente, cose di questo genere, e io mi sono incuriosito, sono andato a prendere l'album dei Montrose. Ecco. Ha avuto un suo successo, ecco, queste parole. Esatto, cioè ne parlava spesso le cose dette, mi ricordo anche dei termini di un personaggio grande del rock italiano che ben conosco, che mi ha dato anche delle possibilità di scrivere dei libri, vale a dire Riccardo Bertoncelli. Mi ricordo una volta che a proposito di Blue Oyster Cult parlava sventagliate di metallo e violenza, ma lui lo diceva non certo in senso particolarmente positivo. Ecco, invece io trovavo questa cosa fosse particolarmente simpatica e invitasse all'ascolto. Va bene, allora al volo ancora i messaggi che scrivono gli amici. C'è chi si è soffermato su i Free dicendo appunto, come l'amico Johnny Blade, grande il batterista dei anche, Free, anche un solo rullante, un solo tom, un timpano, una gran cassa, un paio di piatti e Charles, molto essenziale. Esatto, però sono stati più grandi delle Zeppelin, che sono venuti dopo, se non sbaglio. No, in realtà sono coevi, dai, forse sì. Il primo dei Free è del 68, ma sì, siamo lì. Effettivamente ci sono, questo è un dato significativo anche da parte di questo tuo ascoltatore, dimostra anche il range di pubblico che hai, perché non è una cosa strana che ci siano degli appassionati che preferiscono i Free e le Zeppelin. Sembra certo, clamoroso, sembra una bestemmia, invece realtà, non è vero, no. Invece non è vero, e anche in Inghilterra ci sono, infatti ci sono molti appassionati inglesi che considerano Paul Rodgers in assoluto il miglior cantante inglese. Infatti si aggiunge anche Rudy da Sesto dicendo: il bassista dei Free suonava come se fosse una chitarra solista, fantastico. Come fa anche quello degli Stranglers, ma questo è un altro e comunque stile. veramente interessante che questi ascoltatori siano così recettivi. Immagino che tu li hai audito. Qualcuno dice ognuno ha gli ascoltatori che si merita. Insomma, è chiaro che un programma che si occupa di storia, di cultura, o quantomeno di viaggio, no? Di viaggio, di escursioni nelle varie parti del mondo e nei vari periodi storici, insomma, poi appassioni e catalizzi un po' l'attenzione degli appassionati, quindi questo è normale. Poi Brutus dice: fine turno, neanche al bar, dritto a casa, c'è lezione di storia dell'arte del rock. Grazie. Poi un saluto al collega Silvio e poi altri complimenti per la puntata di stasera, che io volto volentieri a Beppe e lo esorto a continuare. Ha portato un altro brano, appartiene al repertorio di una band americana sempre degli anni 70, quindi abbiamo aperto la parentesi americana con i Montrose, torniamo con gli Starts, dei quali ci parli dopo aver ascoltato dall'album omonimo la Detroit Girls, che altro non è che il brano di apertura. Rock FM presenta Cinema Cinema, quotidiano di informazione cinematografica. Lei viene definito il Leonardo da Vinci contemporaneo, che cosa ha da dire? Dal genio di un solo uomo. Finalmente ora so che cosa devo fare. Qualcosa di straordinario. Ho aperto gli occhi, voglio proteggere le persone che ho messo in pericolo. Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow. Eroe non si nasce, si diventa. Iron Man, al cinema. Cinema Cinema 01 Distribution presenta. Dicono che la nostra età è la più bella, ma hanno idea di che vita facciamo? Prendiamo la scuola. Per salvarvi dalla retrocessione ci vuole soltanto un miracolo. Chi mi rimane allora? I miei amici. Dai, sali, che andiamo. Devo studiare. Sì, vabbè, poi andiamo mi dà. Ma soprattutto il mio blog. Ultimi della classe, dal 16 maggio al cinema. Cinema Cinema, in concorso al Festival di Cannes. Ora vi conto tutto, ma tenetemi forte le sedie, perché tutto si tiene, tutto si tocca, tutto si collega. Io ve lo ripeto, tenetemi forte le sedie. Il Divo, un film di Paolo Sorrentino, dal 28 maggio al cinema. Cinema Cinema, Cinema, Cinema. Quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group. Siete all'ascolto di Easy Rider. We'll be right back. dagli Stars agli Angel di Giuffria, di Greg Giuffria, nel 1975. È un momento, la seconda metà degli anni 70, in cui anche in America esplode questa tendenza fantastica di ottimo hard rock, e questi due rappresentanti sono stati scelti dal luminare che stasera Easy Rider ospita, ossia Beppe. Allora, un commento incrociato su questi due. Sì, esatto. Questi gruppi, i più importanti appunto, sono stati gli Stars, gli Angel, i Lex Diamond, i Gozzi, i Rex, per esempio. Sono stati anche oggetto di un'antologia curata, mi sembra, da Dave Reynolds, un notico critico inglese, vale a dire Strictly for Connoisseurs. Era scritto anche in termini non praticamente inglesi, della Music for Nation, su quella che era stata proprio un po' la generazione perduta dell'hard rock americano, perché per queste formazioni hanno esordito dal 75 in poi, quando tutta la critica era imperversante sul punk e la new wave. In Europa perciò, in America molto di meno, di la verità sono passati abbastanza inosservati, ma in realtà sono stati estremamente seminali, perché senza queste formazioni il famoso hard rock melodico degli anni 80, che poi ha conquistato le classifiche, difficilmente sarebbe stato lo stesso. E questi gruppi avevano una creatività anche nel fare l'hard melodico, nel caso degli Angel, nel caso degli Stars l'hard melodico, nel caso degli Angel questo mix tra hard rock e spunti progressive, che era stato denominato anche forse in maniera un po' ridicola pomp rock, comunque questo era il nome del gioco. E queste formazioni appunto in realtà sono state, secondo me, anche molto più creative di varie che hanno avuto ben più successo negli anni 80. Bisogna dire che la definizione che hai menzionato ovviamente è ridicola in Italia, ma fa rientrare anche band come gli Styx. Certamente, insomma, anzi, quelli hanno avuto anche un successo ben superiore, Styx, certo. O Kansas in particolare. Esatto, i Kansas, che ci accingiamo ad andare a vedere il mese prossimo in Svizzera insieme all'amico Filippo. Io sono contento della puntata di oggi, Beppe, perché abbiamo sdoganato Beppe Riva come un luminare della musica rock e non per forza del heavy metal dagli anni 80 in poi, che è stato il momento di tua maggior visibilità, di tuo maggior successo come critico musicale, per cui non avevi bisogno forse di esporre tutta quella parte che è già stata abbondantemente esposta sulle righe, sulle pagine delle riviste specializzate, e oggi abbiamo dimostrato con la musica, con i suoni veri e propri, quello che è la tua linea, il tuo gusto e delle cose che appunto si possono imparare sempre anche ascoltando la radio. Allora, anche se purtroppo diciamo che è una cosa estremamente sintetica rispetto a tutto quello che potevamo mostrare, diciamo. Sì, infatti, come dicevo prima, sarebbe il caso di averti ospite quotidiano per poter disquisire su tutto quello che passa da queste frequenze. Io ti chiederei di non andartene, anche se mancano meno di 10 minuti alla fine. Volevo semplicemente tributare al compleanno di un batterista che si chiama Chris Maitland un brano, visto che appunto oggi cade il suo compleanno. Lui suonava prima di Gavin Harrison nella formazione, secondo me, fondamentale dagli anni 90 in poi, dei Porcupine Tree, quindi uno dei gruppi inglesi che ha ripreso in mano molto bene la fiaccola del prog rock. Esatto, il progressive con le sue accezioni più hard, più oscure. Tra l'altro un disco che è un vero e proprio capolavoro negli anni 90, si intitola Stupid Dream del 1999, un brano in cui questo batterista fa anche i cori, quindi presta anche una piccola partecipazione vocale. Si intitola Stranger by the Minute, loro sono i Porcupine Tree, e a dopo per i saluti con Beppe Riva. Just after dark, kills children, no one has a harp. They look like tourists, it makes me want to laugh. Love. Chris Maitland, grande batterista all'epoca dei Porcupine Tree, riascoltati con Stranger by the Minute dall'album Stupid Dream. Oggi è il suo compleanno, lui si trova dalle parti della Grecia, mi dicono, per questioni lavorative. Suona ancora la batteria, ovviamente non più nei Porcupine, ma suona in ambiti teatrali e in ambiti di musical. Io, prima di lasciarvi nelle mani di Maurizio Faulisi, che è già pronto qui anche con delle sorprese per voi, voglio ringraziare Beppe Riva per questa due ore veramente illuminante sulla storia della musica rock. E tra l'altro, Beppe, voglio anche dire che insomma fuori onda si stava già ragionando sulla stesura di un libro tuo al quale io potrei scrivere una postfazione, se sei d'accordo. Va bene, cercheremo di approfondire. Io ringrazio te naturalmente per avermi dato anche questo ambito ideale per poter ricordare un po' quelle che sono le mie passioni musicali, e speriamo anche di aver così sollecitato qualcuno, magari visto che c'è la convention di Novegro Linate sabato e domenica, magari ad andare a comprare qualche ristampa interessante. Ecco. Intanto saluto tutti gli ascoltatori di Rock FM, ringraziandoli per essere stati in ascolto. Infatti questo è il proposito di Easy Rider. Mi fa molto piacere quando incontro ascoltatori che mi dicono: guarda, ho comprato questo disco perché l'ho sentito da te, e questa è una delle nostre soddisfazioni. Va bene, da parte di Mox anche per oggi è tutto, puntata speciale quella di oggi. Io sono pronto con la sigla e pronto anche per lasciarvi insieme a Maurizio Faulisi. Noi ci risentiamo domani puntuali alle 21. Da parte di Mox, ovviamente, un abbraccio circolare. Sai che tutti hanno paura, ecco cos'è successo. Noi non possiamo neanche andare in uno di quegli alberghetti da due soldi. Voglio dire, proprio di quelli da due soldi, capisci? Credono che si vada a Scannabio o qualcosa. Hanno paura. Sì, ma non hanno paura di voi. Hanno paura di quello che voi rappresentate. Ma guarda, per loro noi siamo solo della gente che ha bisogno di tagliarsi i capelli.